La rosa purpurea di Franco D'Assisti. Ben ritrovati amici, la rosa purpurea, un saluto da Franco D'Assisti, la nostra ora di cinema anche questa settimana puntuale qui su Radio 24. 7 nuovi film nelle sale cinematografiche italiane, di 4 di questi ci occuperemo in maniera abbastanza approfondita in questa puntata, anche con molti ospiti. Cominciamo subito con i nostri titoli di testa. Dopo il successo de Il pranzo di Ferragosto, Gianni De Gregorio torna al cinema con Gianni e le donne, protagonista un arzillo sessantenne che non si arrende al correre del tempo e corteggia donne giovani e procaci. Ne parliamo col regista. Paola Randi esordisce sul grande schermo con Into Paradiso, raccontando le disavventure di un ricercatore precario che, per avere una raccomandazione, si ritrova coinvolto in una guerra di camorra. Azione e avventura ai limiti della sopravvivenza nel nuovo film prodotto da James Cameron, Sanctum in 3D, che racconta la storia vera di un gruppo di esploratori rimasti intrappolati in una grotta per colpa di un temporale. Dopo il successo al Festival di Roma, arriva nelle sale italiane Rabbit Hole, con Nicole Kidman e Aaron Eckhart. Il film è un intenso ritratto di una coppia in crisi dopo la perdita del figlio. Allora, vi siete sentite con Debbie? No. Ah, è un vero peccato. Anche se non si può mai dire, in effetti. Sai, quando è morto Arthur, ricordo... Puoi dirlo il suo nome? Davvero? Certo. Non conosco le tue regole, visto l'altro giorno. Puoi parlare di Arthur. Quello che non mi piace sono i paragoni. Abbiamo cominciato da Rabbit Hole, il film di John Cameron Mitchell con Nicole Kidman nella doppia veste di produttrice, ma anche di protagonista assoluta e anche candidata all'Oscar per questa pellicola. Cominciamo proprio da Rabbit Hole, fra i film di questa settimana, fra le novità di questo weekend, perché è un film molto particolare che, come avete capito dalla breve clip che vi abbiamo fatto ascoltare, un dialogo fra il personaggio di Nicole Kidman, Rebecca, e sua madre, è il film sull'elaborazione di un lutto. Rebecca e Howie sono una coppia di un ceto sociale piuttosto elevato, agiato, che abita nella bella provincia americana, quella con le case, le villette di legno e il giardino davanti. Ma Howie e Rebecca sono dilaniati dall'interno, dopo aver perso in maniera abbastanza stupida, tra l'altro, un bambino di 4 anni che ha attraversato la strada inseguendo il cane di famiglia per andarci a giocare ed è stato investito da un'auto. E il futuro non c'è più quando succede una cosa di questo tipo, esiste solo un presente molto doloroso, molto difficile da affrontare e che ognuno, tra l'altro, affronta in maniera diversa, e se questa differenza, questa diversità è fra marito e moglie, diventa anche difficile trovare un comune sentire per uscire da questo tunnel buio. Ci provano in tutti i modi Rebecca e Howie, anche affrontando dei gruppi di quelli dove ci si siede in cerchio e si racconta del proprio dolore, si cerca di tirare fuori, ma lei non ci crede molto che sia questa la strada per venirne fuori. E allora cosa fa Rebecca? Tenta di esorcizzare la morte del figlio parlando con il giovane ragazzo che guidava l'auto e che lo ha investito, il giovane uccisore, non possiamo usare il termine di assassino ovviamente, ma il giovane uccisore del figlio, colui che non ha frenato in tempo, forse andava anche leggermente troppo veloce quando il fattaccio è successo. Parlando con lui, tutto sommato consolandolo, Rebecca cerca anche una sua via di fuga. Ecco, certe volte mi viene a trovare in sogno e mi dice che sta bene e che sta con Dio. E per un po' stiamo bene. Quando stiamo bene, pensiamo che veramente poi possa andare meglio. E quando lo pensi, va davvero meglio. Poi l'altra settimana era il suo anniversario. Era un anno martedì scorso. E ricomincia tutto da capo. Dobbiamo ricordarci l'un l'altro che tutto questo fa parte del piano di Dio. Sì. E noi non sappiamo perché. Solo Dio sa perché. Invece Howie vorrebbe tornare a vivere, vorrebbe intanto non staccarsi dai ricordi del figlio, come invece la moglie cerca di fare eliminando tutto, fotografie, vestiti, tutto quello che riguarda, quasi questo bambino non fosse mai esistito. Howie questo non lo vuole, ma vuole tornare per esempio ad avere un rapporto anche carnale con la moglie, che da mesi non riesce più a farsi nemmeno avvicinare. E allora una volta trovata una compagna di ventura, potremmo chiamarla, proprio un'altra frequentatrice di quei circoli di autoascolto, Howie, insomma, perde un po' il senso dell'orientamento. Sentiamo. Oddio, perché? Ciao, Gabi. Lo so, ma non posso credere che tu mi abbia visto farlo. Non volevo arrivarti alle spalle di soppiatto. Pensavo che avessi un problema, ma a giudicare dall'odore va tutto bene. Si sente molto, eh? Oddio. Lo sapranno tutti adesso. No. Te lo giuro, non lo faccio mai. Kevin dov'è? Oh, non ci viene più al gruppo. Ed è colpa di tua moglie, perché per me è stata lei a mettergli in testa l'idea. Già, beh, non sembrava gli piacesse poi tanto il gruppo. Dio, questa cosa mi ha veramente sconvolto, insomma. Sono come... insomma, sto fumando erba in un parcheggio, come se fossi al liceo, capisci? Sono ridicola. Ce n'è anche per me. E questo è un po' il disegno il ritratto di questi due personaggi. Personaggi che nel momento in cui decideranno finalmente di guardare in faccia la triste, durissima realtà che stanno affrontando, troveranno una speranza. Ecco, diciamo, nel finale del film c'è una speranza, non si può parlare sicuramente di lieto fine, ma di un fatto di ritornare comunque a consegnarsi alla vita, perché forse è l'ultima e l'unica cosa che si può fare. Dicevamo, produce Nicole Kidman, che ci ha creduto molto in questo progetto, un progetto che viene da una pièce teatrale off Broadway. Si sente molto l'ambientazione teatrale nel film molto in interni, molto sugli attori, senza grandi panoramiche, grandi spazi, dove bastano uno o due personaggi per scena per tessere questa storia. Una storia che sta assolutamente tutta sulle spalle di Nicole Kidman, anche segnata un po' dal tempo. Ci fa piacere non vederla così di plastica come si è vista in altre occasioni recenti. E dicevamo anche produttrice molto brava, e meritato assolutamente la nomination all'Oscar. Vedremo se si trasformerà in una statuetta. Un film indipendente, un film non ricchissimo questo, ma dicevamo produttrice. Allora sentiamo dalla voce di Nicole Kidman come ha affrontato questa nuova sfida. Ci sono un sacco di cose in cui stiamo lavorando. Questa è una di quelle cose che vengono prima di tutte. E sono felice che sia stato così, perché è un film davvero profondo e dice molto su quanto abbiamo voluto lavorare come produttori. E allora, questa era Nicole Kidman, questo è Rabbit Hole, la prima proposta cinematografica di questo weekend al cinema. E allora siamo ancora qui alla Rosa Purpura con questa musichetta con tanto di fisarmonica che ci introduce alle atmosfere di Gianni e le donne, il nuovo secondo film da regista del sempreverde, potremmo dire, Gianni Di Gregorio. La ricorderete la sua storia, sceneggiatore di grandi qualità, che l'anno scorso, anzi 2 anni fa per la precisione, esordì con Il pranzo di Ferragosto, un film a bassissimo budget che fu un successo clamoroso e ci fece scoprire un modo di fare commedia italiana un po' naif, un po' alla Jacques Tati, insomma, un po' sognante, un po' sopra le nuvole in un certo senso. Ebbene, Gianni Di Gregorio adesso ha trovato qualche soldo in più, ovviamente, perché il successo è stato grande, lo ha messo a servizio di un nuovo film, Gianni e le donne, che ha però quel clima lì, anche se tutto sommato i mezzi produttivi si vedono di tutto questo. Tra l'altro, fra poco parleremo con lui in un'intervista che ci ha concesso. Però Gianni e le donne, raccontiamolo un po'. Gianni è un sessantenne che ha figure femminili che lo circondano e che lo schiacciano in un certo senso, a partire dalla madre, che è la stessa attrice che faceva la madre in Pranzo di Ferragosto. Chi l'ha visto ricorderà, un personaggio strepitoso. Ebbene, la madre che in ogni secondo lo chiama, dovunque lui si trovi, nel cuore della notte, lamentando malesseri che invece poi alla fine regolarmente non esistono. Una moglie, tutto sommato, come si può avere una moglie, insomma, no? Dopo 40, 50 anni di matrimonio. matrimonio, insomma, così, che sì, è lì, lo saluta, gli fa il caffè, però finisce tutto lì. E una figlia un po' svagata, tutto sommato, che diciamo così ha un rapporto con un ragazzo che si è andato anche a infilare a casa loro, quindi Gianni si trova anche questo ragazzo che lei vorrebbe lasciare, la figlia, ma che invece decide di lasciare solo a certe condizioni. Sentiamo. Ciao papi. Oh, Teresina, bella. Come va? Bene, bene, bene. Siediti, dai. Sto di frettissima, veramente, manco c'è l'orologio. E sto... panino, prenditi. Tesoro mio. Senti, passo io, sì, caffettino? Sì, c'è lo zucchero? No. Senti, pa, di là... c'è Michelangelo. Ah, ancora? È rimasto a dormire ieri, alla fine... Ma non vi dovevate lasciare? Sì, poi ci siamo lasciati. Poi dopo un po' sono ricascata. Tesoro mio, nella vita ci sono decisioni dolorose, ma bisogna prenderlo, no? Però ho pensato che lo lascio dopo gli esami. Avete sentito? C'è un piano alle spalle. Allora, Gianni sente un bisogno, che è il bisogno di tornare a conquistare, di tornare... a scambiare con una donna un sorriso ricambiato, un appuntamento. Gianni è un galante, ovviamente, non si permetterà mai di pensare solo al sesso. È uno che è un uomo d'altri tempi e prova a tornare in pista, diciamo così, ma come un motore che ha bisogno di ricarburare, insomma, trova che il mondo è un po' cambiato fuori, anche perché lui se le cerca tutte bellissime e molto molto procaci, cioè gente che ha mercato, per intenderci, quindi è difficile poi a 60 anni ritrovare con delle ragazze di 30, 35, 40 anni, delle donne splendide, insomma, di ritrovare sempre, subito, immediatamente il feeling. È un po' difficoltoso. Una delle persone, una delle tante bellissime donne di cui Gianni si innamora, come fa ogni 5 minuti più o meno durante la sua giornata, è la badante di sua madre. Badante di sua madre che sembra a un certo punto corrispondere a queste attenzioni, ma in realtà c'è un però. Sentiamo. Cristina, si può? Posso? Buongiorno. Buongiorno. Signor Gianni. Buongiorno. Che ci fate qua? Ma io mi sono permesso di portarle il caffè perché ieri sera ero ubriaco. E mi volevo far perdonare, ecco. Sì. Grazie, non doveva. Grazie. Ma lo sa che l'ho sognata stanotte? Davvero? Sì. Era un sogno bellissimo. E... ah, non era tutto molto chiaro, era un po' strano. Ma poi ho capito molto bene. Lei era mio nonno. Grazie. E insomma, una delusione dietro l'altra per il povero Gianni. L'amico di sempre cerca di sollevarlo e a un certo punto ricorre alla meccanica. Insomma, gli dice, beh, qui dobbiamo andare al sodo, bisogna andare a trovare donne che non ti dicano di no, avete capito di cosa parliamo, e farlo anche con qualche aiutino. Ora adesso bisogna stringere con il tempo. Bisogna andare a sodo, come si dice. Se vai in questo posto ti trovi benissimo, non c'è complicanza, niente. Alfa, io ti ringrazio, ma vedi, anche qui, io, anche una signora di queste a pagamento, io, non è che arrivo la prima volta, boom, capito, chissà che succede. Io ho bisogno di un attimo di tempo, un po' di confidenza. Sì, ti devi prendere il tè con la zia, il caffè con il padre, conoscere bene i nonni, i nipotini, tutti quanti. Ma di questo passo non vai da nessuna parte, Gianni. Comunque io da amico ti ho pensato. Ti ho trovato una bella cosettina per te, che risolviamo il problema. No, no, che era droga, Alfo, io non la posso... No, guarda che non è... No. Io, guarda, mi viene da vomitare, non è per un fatto di... Questa è la pasticca dell'amore, la prendi e sei pronto. Un'ora di tempo e vai. E beh, insomma, ancora una volta Gianni Di Gregorio ci lascia con il sorriso, anche quando racconta cose velate di malinconia o di amarezza, come appunto il rapporto fra un uomo che ancora ha delle pulsioni, insomma, si sente ancora giovane, ancora piacente, ma che trova fuori un mondo molto, molto cambiato. È un film davvero molto, molto gradevole, questo Gianni e le donne. Tra l'altro, le due anteprime che mi è capitato di vedere hanno avuto sempre il pubblico molto partecipe, grandi applausi, quindi film che potrebbe trovare anche in questo momento di grande ritorno ed esploit della commedia italiana davvero un suo pubblico, con questo sfondo di una Roma sempre amabile che Gianni sa riprendere in maniera molto affettuosa, ed è un set che diventa protagonista anche del film. Andiamo a sviluppare meglio i temi di Gianni e le donne nell'intervista con Gianni Di Gregorio. Partiamo da qui, insomma, da Gianni e le donne, un film veramente molto divertente e che ci porta in una fascia di età che non si arrende, così come tu non ti sei arreso nel fare cinema, il tuo personaggio non si arrende al tentativo di trovare una donna possibilmente bella e possibilmente giovane, cioè, le vuoi veramente tutte. Sì, non si arrende, e questo lo trovo anche giusto. È chiaro che poi uno deve fare i conti con la realtà, cioè con la realtà proprio, relativizzarsi, no? Quindi è evidente che questo personaggio, che cerca di rimettere in moto un meccanismo che, insomma, che è passato da tempo, fa delle figure, cioè, spero che sia tutto molto divertente, ma fa delle figure che hai visto, insomma, non, è come veramente una macchina ferma nel garage da 30 anni che si rimette in moto. Però io credo che sia legittimo sperare sempre, ma soprattutto nell'amore. Tra l'altro il bello di questo personaggio è che ha un candore e una gentilezza che probabilmente sono anche il limite nel momento in cui lui va ad affrontare una situazione che è diventata invece molto aggressiva oggi anche nell'amore, no? Si è molto aggressivi, si pretende tutto molto tirato. In questo il tuo personaggio, in generale i tuoi due personaggi che ci hai fatto conoscere, mi ricordano molto personaggi cinematografici come per esempio Jacques Tati, ti rivedi, o quantomeno insomma fa parte dei tuoi, tra virgolette, maestri? Sì, assolutamente sì, Tati, io amo il cinema francese, Tati, infatti è un onore per me, ti ringrazio, però forse in qualche modo, chissà, forse a quest'età mi sono detto, questo candore che tra l'altro c'è nel mio carattere e che mi ha ostacolato in tantissime occasioni, lo metto in gioco, uso questa defiance, se vogliamo chiamarla così, o questa mia natura. Quello che ho pensato è che in fondo questo personaggio è molto più, credo io, normale di quanto appaia. E nella normalità io trovo che c'è qualcosa di sano. E quindi era un po' questa l'idea. L'idea, sì, di mettere in gioco un personaggio che in qualche modo non ha avuto tanto. Come ti posso dire nella mia vita, ecco, non ho avuto tanto, però l'intensità dei sentimenti c'è stata. Produttivamente questo film mi è sembrato, rispetto al primo, cominciare a entrare un po' più nella macchina anche dell'inquadratura, della battuta, della scelta registica. C'è un po' meno naivete forse, anche se il tuo personaggio, come abbiamo detto, è quello che è, ma non temi che ci possa essere a un certo punto, andando avanti, una normalizzazione? Il tuo cinema in fondo è bello anche perché è così. Sì, ma io credo che ci starò attento a quello. Qui c'erano certo più mezzi, è un film più ricco, però c'è sempre il tentativo artigianale, cioè io tendo, anche se c'è una grossa troupe, poi a isolarmi con la macchina presa, andare dietro il vicoletto, poi tutti mi cercano dove è andato a finire, tendo sempre a fare un cinema molto più, tra virgolette, operaio, artigianale, piccolo. Ti dirò anche che avrei potuto forse avere un budget maggiore per questo film, però ci siamo limitati ad un budget giusto, medio piccolo, perché se mi metti in mano un budget così io non so che reazione, probabilmente me ne vado, come gestirlo, o anche se vedo una troupe di 40 persone mi spavento in qualche modo. Sono contento che tutti stiamo lavorando insieme, ma mi dà un po' di panico, quindi io penso di avere sempre quel uno spirito un po' artigianale, quindi di fare un cinema più limitato. Era Gianni Di Gregorio alla Rosa Purpurea per raccontarci Gianni e le donne nei cinema italiani da questo fine settimana. Noi, prima di dare la linea alla regia, cominciamo a giocare, perché è arrivato anche il momento, non abbiamo voluto interrompere il flusso di informazioni e di voci su Gianni e le donne, ma è il momento di giocare con il nostro DVD Game e di ascoltare la prima delle tre tracce misteriose di un film che dovrete indovinare. È da non credere, porca puttana. Questo posto è una barzelletta. Per fortuna non sono ferito, in questo cesso morirei dissanguato. Dico bene, amico mio? Scusa, fratello? Questa è una follia, non fare stupidaggini. Quello che vuoi. No, devi fare qualcosa, Steve, hai capito? Se avete già indovinato di che film si tratta, la rosa purpurea @radio24.it per provare a vincere il DVD di questo film. Ed eccoci ancora insieme, Rosa Purpurea, terza parte del nostro programma. Abbiamo detto ancora un film italiano, una settimana dove c'erano proposte nostrane, anche abbastanza particolari, che si muovono, come anche già il caso di Gianni e le donne, di cui abbiamo appena parlato, nell'ambito del mondo della commedia, ma con tinte sicuramente diverse dal solito, in generale anche ovviamente molto diverse tra di loro. Affrontiamo adesso un altro film, si intitola Into Paradiso, e adesso poi ci faremo spiegare dalla regista Paola Landi se dobbiamo pronunciarlo all'inglese o all'italiana, ed è un film ambientato totalmente a Napoli, dove uno scienziato, un ricercatore universitario, un po' impacciato, un po' timido, si trova catapultato in una situazione davvero più grande di lui. Ascoltiamo il trailer. L'Italia è una terra di lavoro. Don Fefe, voi lo sapete, io per voi sarei disposto a fare qualsiasi cosa. Qualsiasi cosa, Don Fefe. Buta Vincenzo Cacace. Surprise. Lui è il nuovo badante, il sostituto del sostituto di San Pat. Ma non era più nocciola? No, signore, questo è nuovo. Mi dispiace, dottore, è uno sconcio. Un licenziato. Affa, non fargli credere, non fare come me. Trovati una raccomandazione. Io tengo una persona importante, solo che gli devi portare un piccolo regalo. Allora che ti dico io, dove ti dico io. E allora questo era il trailer, un estratto del trailer di Into Paradiso. È con noi la regista Paola Landi, che saluto. Ciao Paola. Ciao, grazie di avermi invitato in trasmissione. Allora, intanto sveliamo l'arcano. Into Paradiso o Into? Come preferite, perché questo è una specie di nuovo broccolino, se così si può dire. È una specie di mix fra inglese, napoletano, srilanchese, ecco. Eh beh, insomma, che sono poi le lingue e i popoli che come dire, albergano nel tuo film. Una commedia, ho detto prima, nella quale un uomo mansueto si trova catapultato in una situazione più grossa di lui tramite un amico che dovrebbe fargli la classica raccomandazione, che è Peppe Servillo, sempre molto divertente, si trova addirittura invischiato in una guerra di camorra. Allora ti chiedo innanzitutto come ti è venuta questa idea, cioè di intanto una milanese a Napoli, e quindi come dire di ambientare questo film con degli squarci di Napoli davvero molto belli e molto particolari, e poi di far precipitare questo povero ricercatore, che di questi tempi è anche il massimo del precariato, se vogliamo, all'interno di questa spirale addirittura camorristica. Ma io volevo fare una commedia sull'Italia multietnica e ho trovato a Napoli questa comunità di sri lankesi straordinaria, molto ben organizzata, proprio perché per le caratteristiche peculiari della comunità su Napoli, che vive in una zona abbastanza circoscritta e che quindi grazie a questo ha potuto organizzarsi appunto molto bene, cioè per i vicoli napoletani, per questo cavone che è un vicolo che va da Piazza Dante in su, coloratissimo, pieno di motorini, si può incontrare non so, un monaco buddista sri lankese che serafico con la sua tonaca passa, piuttosto che dei ragazzini delle scuole sri lankesi che sono di stampo anglosassone, quindi con la divisa, col cravattino, insomma, che salgono su in mezzo a tutto, insomma, il colore e il caos dei vicoli napoletani. E quindi insomma, ho pensato fosse il posto ideale per ambientare la mia storia. In più, nonostante io, anzi proprio perché sono milanese, diciamo, e volevo fare una commedia sulla multiculturalità, mi sembrava che il mio approccio su Napoli potesse essere, insomma, corretto, visto che parlavo di un personaggio napoletano, sì, ma che diventa un po' straniero nel cuore della propria città, cioè Alfonso D'Onofrio, dall'altro lato di un personaggio che è straniero e arriva a Napoli per la prima volta in Italia. Ecco Paola, volevo chiederti una cosa anche sulla cifra stilistica che hai scelto per questo film. La potremmo ribattezzare una commedia onirica, sei d'accordo? Ah, bello, mi piace molto questa definizione. Molto bella. Perché c'è molto una dimensione, al di là dei sogni di Alfonso, che sono tanti, tra l'altro ricordiamo il cast, abbiamo detto della presenza di Peppe Servillo, ma Gianfelice Imparato, che è appunto il protagonista Alfonso, e poi Saman Anthony e tutta la comunità appunto srilanchese. Però dicevo appunto del sogno, mi sembra che permei anche, proprio dal tipo di inquadrature, dalle scelte stilistiche che hai fatto, le parti che non sono oniriche davvero, cioè che non sono i sogni di Alfonso. Il film me è una favola contemporanea e quindi, e poi soprattutto, i miei personaggi si trovano a vivere in un luogo un po' particolare. E allora, grazie a Paolo Arandi, ricordiamo Into Paradiso o Into Paradiso, come volete, nei cinema italiani, passato tra l'altro a Venezia, quindi già con un po' di pedigree nelle nostre sale. Grazie Paolo, in bocca al lupo. Grazie a voi e crepi. E allora, prima di passare alla quarta proposta nuova di questo fine settimana al cinema, seconda traccia del DVD Game di oggi. Signori, potete venire con me, per favore. Ma vai, ci sono alcune procedure da seguire. Che tipo di procedure? Ciò, dobbiamo ricoverare vostro film. Dovrete compilare dei moduli, delle quali schede. Quali sono questi moduli? È possibile che abbia bisogno di una trasfusione. Dobbiamo sapere a quale gruppo sanguigno appartenete. Ma d'accordo. Torniamo d'accordo. Subito, amore mio, torniamo subito. No, aspetti un momento. Trattasi di Blu-ray e non di DVD, ve lo dico perché ormai siete tutti, soprattutto gli ascoltatori della Rosa Purpurea, molto attrezzati, ma insomma sappiate che in palio c'è il Blu-ray di questo film. Se avete indovinato di che film si tratta, la Rosa Purpurea @radio24.it, più tardi, l'ultima traccia. E adesso siamo alla quarta proposta, torniamo all'estero e soprattutto torniamo in America, andiamo in America per un film che ha fatto molto parlare di sé, soprattutto per l'aspetto produttivo, perché torna dietro i cordoni della borsa, non dietro la macchina da presa, James Cameron, che ha avuto, secondo molti, il merito, secondo altri, la colpa di avere implementato il 3D nelle sale cinematografiche di tutto il mondo con Avatar. Stavolta non dirige lui, ma ci crede molto, evidentemente, visto che arriva questo Sanctum, che ha un titolo un po' da horror, se vogliamo, in realtà, sì, forse anche un po' venato di qualche atmosfera orrorifica, storia di speleologi che si calano in una grotta, ne succedono di ogni e ovviamente con gli occhialini in 3D tutto sembra più vero e più vicino. Andiamo a sentire subito un estratto del trailer. Queste rocce e queste grotte, quali altri posti sono sconosciuti all'uomo? Non sono rimasti altri luoghi da esplorare nel pianeta. E allora, se conosco Boris Sollazzo, questo film gli è piaciuto molto. Boris, ciao. Ciao Franco, ciao a tutti gli ascoltatori. Direi di no, penso che ormai mi conosci molto molto bene. Direbbe Corrado Guzzanti, subacquei per raccontare questo film, perché devo dire che la cosa più bella, che non è poco, è proprio quello che tu hai raccontato, è la produzione di Cameron, è l'idea di utilizzare la tecnologia 3D avveniristica, ancora irraggiungibile per tutti gli altri, che Cameron ha usato per Avatar, portandola sotto l'acqua con questo sistema originale che si chiama Cameron Pace, e che in alcuni momenti lascia davvero senza fiato, scusate la battuta, che risulta involontaria, nel senso che appunto questa è una lotta contro il tempo di un gruppo di subacquei, di speleologi subacquei, di subspeleologi che devono uscire fuori da una grotta allagata da un ciclone, e ovviamente risulta particolarmente difficile, ovviamente escono fuori tutti i conflitti, c'è un padre e un figlio che si ritrovano in quelle grotte, la trama lascia il tempo che trova. Questo è un difetto, se vogliamo trovare il pelo nell'uovo, è un difetto che ha anche Cameron nelle sue regie. E tutto sta in queste riprese che però dopo un po', insomma, perdono la loro caratteristica di sorpresa e di forza visiva, quindi devo dire che poi alla fine in alcuni momenti addirittura risulta abbastanza tragicomico il film. E allora, grazie a Boris Sollazzo per aver educatamente stroncato Sanctum in 3D, che comunque sarà presente in un numero di sale davvero cospicuo, e attendiamo alla prova. Sono anche queste un po' le prove che ci piace aspettare, perché abbiamo parlato in questi due mesi di stagione clamorosa della commedia italiana, di Italia che ha ritrovato il suo pubblico, messe di persone, file, code interminabili per Zalone, per Albanese, per Immaturi, per tutte le nostre commedie. Adesso vediamo se la forza di un film in 3D, come accadeva un anno fa, un anno e mezzo fa, targato James Cameron, può spostare questo asse, se invece qualcosa si è consolidato. Anche a questo serve. Grazie a Boris Sollazzo, a risentirci. Grazie a te, a presto. I'm busy, fuck off. This is Toby. Toby, hi. Glad you could make it. Yes. It's a bit of an odd morning here. Yes, so welcome to the madhouse. Did I not just tell you to fuck off and yet you're still here? It's true, I am, yes, still here. Hey. Fittest boy, lesson one. I tell you to fuck off, what do you do? F off? You'll go far. Well, fuck off. Avete sentito sicuramente una terminologia molto molto riconoscibile a tutte le latitudini. Siamo ai dispersi, siamo alla nostra rubrica con Alberto Brumana, che ogni settimana ci racconta un po' i film che non sono mai usciti in Italia e che non usciranno almeno nei canali tradizionali e come recuperarli. Oggi non è un film disperso, è addirittura dispersissimo. E spieghiamo perché proprio con Alberto Brumana. Ciao Alberto. Ciao Franco, oggi parliamo di In the Loop, una commedia satirica inglese. Si tratta in pratica di un disperso al quadrato, perché In the Loop è lo spin-off di una serie, Tico Vit, che è a sua volta inedita in Italia. È un film che è realizzato riproponendo una serie di personaggi ispirati ai protagonisti della politica inglese e, rispetto alla serie TV, aggiunge una linea narrativa riguardante l'intelligence americana. In pratica, durante un'intervista tenuta a BBC Radio, teniamo conto che Tico Vit, la serie, è prodotta da BBC, un ministro inglese per sbaglio definisce la guerra nel Medio Oriente imprevedibile. L'utilizzo di questo aggettivo crea un incredibile scompiglio con degli ufficiali di Stato americani in visita a Londra. In the Loop è una commedia satirica assolutamente divertente e quasi incredibile, in cui gli inglesi vengono tutti rappresentati come obbedienti ma assolutamente incapaci, mentre gli americani razionali ma psicopatici. Le battute sono rapidissime, veloci, con una comicità che è quasi simile a quella che ci ricordano i Monty Python. Su tutti ci sono Peter Capaldi, che è il ruolo dello spin doctor del primo ministro, e un divertentissimo James Gandolfini, che è il tenente generale pacifista. Pensiamo che descrive con queste esatte parole la guerra. È proprio come la Francia, una volta che l'hai vista, non ci vorresti mai tornare di nuovo. Il film è costato solo $1 milione, tutti messi dalla BBC, e ha avuto ottimi incassi sia nel Regno Unito sia negli Stati Uniti, incassando in tutto più di $10 milioni. È uscito in quasi tutti gli stati europei, tranne che in Italia, ed è stato anche presentato con successo al Sundance e al Festival di Glasgow, e ha avuto anche una candidatura all'Oscar per la migliore sceneggiatura. In Italia, appunto, come ti dicevo, è assolutamente inedito, ma è facilmente reperibile in rete il DVD, tra l'altro si trova anche solo a 5 euro, e sono anche disponibili da scaricare i sottotitoli in italiano. E grazie allora Alberto Brumana per averci fatto conoscere questo In the Loop. La battuta sulla Francia è di quelle da segnare davvero sul nostro taccuino. Quarta parte del nostro programma, come da tradizione, occupata dai film da vedere e rivedere in TV o in DVD, insomma, a casa propria. E mai come questa volta i titoli che ha scelto la redazione di Film TV si intrecciano, e capirete perché, con l'attualità. Un saluto a Claudio Bartolini. Ciao Franco, un saluto a tutti gli amici di Radio 24 dalla redazione di Film TV. Il primo consiglio per la settimana che sta per cominciare è Blood Simple, Sangue Facile dei fratelli Coen, che andrà in onda lunedì 14 febbraio su Rai Movie, quindi digitale terrestre free, visibile a tutti, a 00:20. Un titolo particolarmente attuale, dato che al Festival di Berlino hanno appena presentato il Grinta, ultimo film capolavoro dei fratelli Coen, che è già sulla bocca di tutti, critici e non. Blood Simple è l'opera d'esordio, quindi, dei Coen, ambientata nel profondo Texas. Trattasi di un intricato noir a sfondo grottesco che vede coinvolti 3 protagonisti, una donna e 2 uomini, in un triangolo, in un valzer di relazioni sentimentali e a tinte gialle, che li trascinerà lentamente verso un abisso costellato, come al solito, e di parentesi di espedienti comici, surreali e sopra le righe, e nello stesso tempo macchiato di sangue. Blood Simple, quindi, dei fratelli Coen, lunedì 14 febbraio a 00:20 su Rai Movie. E invece un altro legame con l'attualità, anche dall'Italia. Anche il secondo titolo si lega molto bene all'attualità, dato che si tratta di una pellicola di Gianni Di Gregorio, quel Gianni Di Gregorio che esordì appunto nel 2008 con Pranzo di Ferragosto e che ora porta nelle sale la sua opera seconda, Gianni e le donne. Pranzo di Ferragosto andrà in onda martedì 15 febbraio su Rai 5, quindi sempre digitale terrestre gratis, alle ore 21:10. Una prima serata di qualità, un piccolo grande film ambientato quasi esclusivamente in un appartamento, dove questo Gianni, interpretato proprio dal regista Di Gregorio, che a 60 anni si mette dietro la macchina da presa e decide di realizzare questo film in tutto e per tutto indipendente, ecco, questo Gianni organizza un pranzo di Ferragosto con sua mamma in compagnia di altre donne che gli vengono affidate da un amico, e in cambio Gianni chiede soldi. Quindi una pellicola che affronta la tematica della vecchiaia, della solitudine e nello stesso tempo le affronta con il tono leggero della commedia sferzante dai toni aspri. Consigliamo assolutamente questo film, anche perché appunto nelle sale c'è il secondo e non bisogna perderlo. Assolutamente, Claudio, lo abbiamo sentito prima Gianni Di Gregorio anche qui alla Rosa Purpurea. Allora, Pranzo di Ferragosto, così potete fare la doppietta, martedì 21:10, quindi prima serata su Rai 5. Grazie Claudio Bartolini. Per le nostre segnalazioni di oggi è tutto, ci sentiamo la settimana prossima e un saluto a tutti gli amici di Radio 24. Ciao Franco. E allora andiamo adesso, prima di passare alle novità in DVD in videoteca, a giocare con la terza e conclusiva traccia del Blu-ray Game di oggi. Dille che voglio che metta subito il nome di mio figlio sulla lista delle donazioni. Chiaro, il nome di mio figlio sulla lista delle donazioni. È grande o piccolo? Ha 9 anni. Anch'io ho 2 figli maschi, John. E allora avete capito, il nome di questo figlio è un po' protagonista del film e anche forse del titolo. La Rosa Purpurea @radio24.it se avete indovinato. E a proposito di indovinare, settimana scorsa avevamo giocato con un film che avevamo anche un po', diciamo così, sottolineato per la sua importanza, perché era stato, almeno è stato fino a questo momento, probabilmente il film dell'anno per quanto riguarda il cinema internazionale. E allora andiamo a sentire la clip che avevamo mandato. Tranne qualcosa lasciato da qualcuno che sta condividendo il sogno e che ci è rimasto intrappolato prima. Quindi nel nostro caso, solo da te. E per quanto potremmo rimanere bloccati? Si trattava di Inception, il film che ha dominato la prima parte della stagione, soprattutto anche nei box office di tutto il mondo ovviamente, ma anche a livello mediatico. È un film di cui si è parlato moltissimo, un film che è rimasto appiccicato, che ha un indice di gradimento altissimo in chi l'ha visto. Ebbene, Inception arriva in DVD e Blu-ray con Warner. I più bravi e veloci del sabato e della domenica scorsa sono stati Marco Bergonti di Cernusco Lombardone e Flaminia Maradini di Carpaneto, provincia di Piacenza. Sono loro che riceveranno a casa il Blu-ray. A questo punto noi siamo già in collegamento con Claudio Poffi. Claudio, ciao, raccontaci un po' quali sono le caratteristiche di questa uscita in un video. Ciao Franco, un saluto agli amici in ascolto. Sì, l'edizione speciale completa, quella di Warner Home Video, assolutamente completa, perché oltre al doppio Blu-ray include la versione a definizione video standard su DVD e la digital copy. La qualità video è assolutamente strepitosa, c'è per il Blu-ray la solita traccia audio Dolby Digital, per l'italiano identica a quella del DVD, ma è presente la DTS ad alta risoluzione in inglese. Sono veramente tantissimi gli approfondimenti, compreso raro un focus sulla colonna sonora con alcuni brani realizzati dal maestro Hans Zimmer, un capitolo dedicato ai sogni e una funzionalità molto interessante che si chiama Extraction Mode, che permette praticamente la visione del film assieme a focus sulla produzione, e quindi la visione integrale del film assieme agli extra si aggira intorno ai 190 minuti. E a questo punto passiamo alle recensioni. Lo facciamo in maniera anomala rispetto al solito, perché vogliamo parlarvi non tanto di un film questa volta, ma di una collana. È una collana che mi ha colpito molto quando mi è stata comunicata. È una vera e propria branca che vuole andare a mettere le mani un po' nel passato del cinema più bello, il cinema grande, il cinema classico, ma anche con delle tinte molto particolari di genere. È la collana della Sinister Film. Noi siamo in collegamento con Nicola Compagnini, che è direttore editoriale proprio di questa collana. Buongiorno Nicola. Allora, buongiorno. Che cos'è Sinister Film? Spieghiamo ai nostri ascoltatori. Sinister Film è un marchio editoriale alquanto atipico, inusuale per il mercato dell'home video, perché, come dice il nome stesso, si dedica al cinema di genere fantastico, quindi horror e fantascienza in primis. È nata nel 2008 da un gruppo di cinefili di cui io sono guida e ispiratore in qualche modo, e poi però si è evoluta e allargata anche a generi diversi come il noir e anche i grandi classici del cinema inglese e americano, di Hollywood addirittura. Nicola, qualche titolo? Qualche titolo, sicuramente l'inizio fu folgorante nel 2008, perché in Italia di Mario Bava non si parlava assolutamente, ritengo sia uno dei più grandi registi italiani, poco conosciuto purtroppo, sdoganato da Tim Burton e Quentin Tarantino. Esordimmo con I Tre Volti della Paura, un grandissimo film horror italiano con la sceneggiatura addirittura di Alberto Bevilacqua, poi Occhi senza volto, film di Emil Pressburger, Powell, un racconto di Canterbury, addirittura in uscita c'è un bellissimo film di Alfred Hitchcock che viene restaurato e riproposto per la prima volta dopo tantissimi anni di oblio, che è Il prigioniero di Amsterdam. Ma potrei stare a lungo a parlare. Assolutamente, no, la collana è lunga e molto molto ricca, è appunto questa tinta noir fantastica che però incrocia, mi sembra, nelle vostre uscite anche autori di grande rilievo. Assolutamente, ho parlato di Hitchcock, ad esempio proprio questo mese sono usciti 4 noir, credo molto importanti per la storia del cinema, noir e non solo, che sono 2 film di Lang, La donna del ritratto di Fritz Lang, e Quando la città dorme, altro film scomparso dagli schermi, neanche passato in TV negli ultimi 20-25 anni, poi Lo schiavo della furia di Anthony Mann. Nicola, grazie. Allora, Sinister Film, andate un po' a sfrugugliare nelle videoteche, perché forse il più grande compito e merito del DVD è quello di restituirci questo grande patrimonio cinematografico che altrimenti sfugge un po' dai canali tradizionali. Grazie a Nicola Compagnini. Sì, a voi. E allora, con tutte le novità in un video, si chiude La Rosa Purpurea. Come sempre, appuntamento alla prossima settimana. Ancora tante uscite importanti su tutto il grinta dei fratelli Coen. Vedremo se la classifica degli incassi, ancora guidata da un film italiano anche questa settimana, Femmine contro maschi di Fausto Brizzi, sarà modificata. Un saluto da Franco D'Assisti.